Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Mia nonna voleva informarsi su come andava il mio lavoro. Mi chiedeva sempre: tu lavori col computer? Io dicevo sì e lei era contenta, perché mia nonna era del 1915, un computer non ce l'aveva mai avuto, non sapeva nemmeno accenderlo, non l'aveva mai visto da vicino probabilmente. Però l'importante era questo, che io lavorassi con il computer, che poi facessi il disegnatore, il programmatore, che ci scrivessi dei libri, dei fumetti, dei videogames, non importava. L'importante era quello, che io facessi un lavoro d'ufficio, un lavoro con il computer, un lavoro seduto alla scrivania, perché questa era la grande conquista per generazioni e generazioni di italiani: abbandonare i lavori manuali e fare un lavoro di concetto, da impiegato seduto alla scrivania con la bella sedia e senza più stare in piedi e stancarsi e rovinarsi le mani, come se la felicità potesse essere trovata in questo passaggio. Invece a volte la felicità si trova anche nel passaggio contrario, in un sacco di persone che passano la giornata a fare documenti, PowerPoint, Excel, tabelle, a fare riunioni, a scrivere cose, e sognano di avere un lavoro di tutt'altro tipo, un lavoro in cui pensi una cosa, la progetti e poi la fai con le tue mani. Oggi parliamo di questo, cerchiamo e vi raccontiamo storie di persone che hanno lasciato l'azienda per la bottega, che sono passati dal lavoro di cancetto al lavoro d'artisti ed artigiani. Volevo soltanto un ciocco di legno. Ma dovrebbe essere un bel ciocco, non è per bruciarlo, voglio dire, ecco. È che mi è piovuta in testa un'idea. Quale idea? Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Mi farebbe compagnia. Un burattino? Sì. Ma sono giochi da bambini. Vorrei fabbricarmi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma, fare i salti mortali. E con quel burattino ci girerei il mondo. Pigliatelo, ve lo regalo. Quale? Quello lì. È il legno di noce stagionato. Quanto era bello, Pinocchio, mi ero perso nell'ascolto dell'audio di Pinocchio di Comencini, scusatemi. Buon pomeriggio, benvenuti o buonasera se state ascoltando la replica, o buonanotte se state ascoltando la replica notturna. Salutiamo tutti i nostri pubblici. Io sono Achille Corea, questo è Giro di Vita, 800 24 00 24, se volete parlare con noi di questo passaggio, di questo cambiamento, di questa ricerca della felicità e della realizzazione personale che si trova a volte nella manualità, nel fare un lavoro che ti permette di costruire qualcosa, di avere una tua attività, di passare dalla materia a un oggetto finito, a un progetto, a una forma d'arte, diciamo appunto, e di artigianato. Questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. I modi per mettervi in contatto con noi li dovreste sapere, ma io ve li ripeto: 800 24 00 24 per intervenire. C'è una pagina su Facebook che si chiama appunto Giro di Vita, e poi c'è anche una mail che è girodivita@radio24.it. Noi cominciamo, come facciamo sempre, con una storia, una persona che ha fatto questo cambiamento e questo passaggio, che oggi è Giorgia. Benvenuta. Ciao, ciao Achille. Giorgia, eccoci. Quanti anni hai? 33. 33, sei giovane, ma hai già avuto un passaggio importante, perché hai fatto tutto un tuo percorso, studi, laurea, eccetera. Ce lo riassumi un pochino? Sì, ho fatto un percorso un po' strano, perché io mi sono laureata in economia ormai la bellezza di 10 anni fa, e ho lavorato in ambito economico per 5 anni circa in grandi gruppi, in grandi multinazionali italiane. Che cosa facevi? L'ultimo lavoro ero in Eni in pianificazione strategica, mi occupavo di analisi della concorrenza e niente, era un lavoro naturalmente con assunzione a tempo indeterminato, ben pagato, sicuro, e ad un certo punto, e tra l'altro ero anche con possibilità di carriera, insomma, ad un certo punto però ho deciso di cambiare un po' tutto, di dare una svolta alla mia vita, e mi sono rimessa a studiare, mi sono diplomata da stilista e modellista, con l'idea di aprire una mia piccola attività, una sartoria. Ecco, facci capire una cosa, tu hai lasciato il lavoro per ricominciare a studiare o hai cominciato a studiare mentre ancora di giorno facevi la donna manager, diciamo, tra virgolette? No, non era possibile, perché per il tipo di lavoro che facevo, cioè mi capitava comunque di fare anche le due di notte in ufficio, di lavorare il sabato, la domenica, per cui in un primo periodo ho preso un'aspettativa. E poi ho lasciato definitivamente il lavoro perché non mi sarebbe stato possibile fare entrambe le cose. E quindi è stata, diciamo, una scelta abbastanza netta. Che cosa ti hanno detto quando hai fatto questa cosa? Guarda, non è stato facile, perché tutti mi hanno considerato un po' una pazza. In primis i miei genitori, che non sono stati proprio felicissimi di questa mia scelta. Però poi alla fine hanno capito che comunque era un'esigenza, questo era un sogno che io avevo fin da piccola, e alla fine, insomma, sono riuscita a realizzarlo, per cui... Quanto ci hai messo da quando hai lasciato il lavoro a quando sei riuscita ad aprire una tua attività? Beh, ci ho messo 3 anni. 3 anni? Sono voluti 3 anni, sì, tra lo studio e il tempo, insomma, di mettere in piedi qualcosa. E scusami, ma 3 anni come hai fatto? Mai avevi una buona uscita? Hai fatto altri lavori nel frattempo? Sì, ho lavorato parzialmente, insomma, e poi comunque mi ero sposata, e quindi abbiamo fatto dei sacrifici, insomma, comunque perché io potessi aprire questa cosa, e poi niente. Allora, raccontaci che tipo di attività hai, insomma, qual è la tua attività artigianale, creativa? Io ho una sartoria e un atelier dove produco abiti da sposa, da cerimonia, da sera, ma anche cose più semplici, insomma, a seconda delle esigenze delle clienti. Mi propongo con una mia collezione, così che quando le clienti, insomma, mi vengono a trovare qui da me in atelier, possano trovare qualcosa da provare, vedere come lavoriamo, trovare qualche spunto stilistico, qualche proposta, insomma. Tu sei in provincia, no? A Fabriano? Sì, io sono a Fabriano, nelle Marche. E com'è stato inserirsi nel mercato? Non facile, anche perché comunque ho aperto in un momento, ho beccato proprio in pieno la crisi, per cui in questo momento è tutto un po' difficile, diciamo che non esistono cose semplici per nessuno, però ecco, uno ci crede e va avanti. Come hai fatto a imparare? Dove sei andata? Cioè, intanto volevo sapere se tu prima già ti davi da fare, cioè facevi delle cose, cucivi, disegnavi, e poi dove sei andata a imparare? Ecco, io facevo per conto mio, ma non facevo granché bene, perché ovviamente senza aver fatto una scuola o aver imparato da qualcuno è difficile, no? Però mi arrangiavo un po', se dovevo modificare qualche vestito, soprattutto crearmi qualche accessorio, lo facevo, insomma, da me. Dopodiché, mentre facevo la scuola, comunque ho fatto un po' di pratica presso una sartoria lassù. Io ho studiato a Bruxelles, quindi in Belgio. Ah, sei andata a Bruxelles a studiare abiti da sposa, non so, moda? Diciamo che è stata una coincidenza che son capitata lì, ero lì per altri motivi, mi ero sposata, ho seguito mio marito e quindi, insomma, la scuola l'ho fatta lì. La moda italiana va a studiare a Bruxelles, no? È stato un particolare. Ci sono scuole anche lì, però certamente noi abbiamo delle scuole eccellenti, quindi se non fosse stata per questa coincidenza probabilmente avrei studiato in Italia. Ci sono veramente delle ottime scuole, quindi non vedo per quale motivo. È stata, diciamo, fuori. Una combinazione. Sì. Dimmi un po', quanto ci hai messo, diciamo? Intanto vuoi sapere se adesso sta andando bene, cioè puoi dire alle persone con soddisfazione: ho lasciato un posto a tempo indeterminato. Ma io non mi sono pentita, cioè, devo dire che sono felice, insomma, delle scelte che ho fatto, e comunque vada, questa cosa resterà, insomma, cioè io avevo considerato la possibilità che, insomma, questa cosa non andasse bene, cioè avevo considerato tutti i rischi, però per me era importante comunque provare, anche perché se non lo facevo adesso non l'avrei più fatto. E dopo è chiaro, insomma, io ho aperto al pubblico da circa 2 anni, 2 anni e mezzo, quindi forse è ancora presto per tirare le somme, per queste cose ci vuole del tempo per farsi conoscere. Dimmi una cosa, quelle domande un po' antipatiche, ci hai messo dei soldi, hai preso dei finanziamenti, qualcuno ti ha aiutato? Allora, guarda, io ho messo qualcosa del capitale mio, ovviamente, avevo dei soldi, avevo venduto la casa, io lavoravo a Roma, avevo venduto la casa che avevo a Roma e quindi ho messo quel capitale lì. Dopodiché ho chiesto un finanziamento agevolato con l'Artigiancassa, essendo artigiana ho potuto farlo e questa è una strada che anzi consiglio a tutti quanti intendano magari aprire un'attività in proprio. E quindi hai avuto insomma questo supporto. Sì. Va bene, io ti faccio l'ultima domanda che per noi è sempre rituale. La valigia e la zavorra. Giorgia, dimmi un po', cosa hai lasciato della vita precedente e cosa ti sei portata dietro? Qual è un qualcosa che ti sei portata con te? Allora, mi sono portata con me un paio di tubini neri che ho scoperto essere comunque un passepartout per tutte le occasioni e anche la capacità di relazionarmi con gli altri. In questo devo dire che comunque l'ENI è stata un'ottima scuola, una palestra di vita. Invece che cosa ho lasciato? Ma penso il fatto di voler essere considerata come un uomo, cioè il fatto di voler somigliare in tutto e per tutto a un uomo, vestire come loro, parlare e comportarsi come loro, pensare come loro. Insomma, l'ENI era una società molto maschilista, per cui questa era un po' una cosa scontata, ci si aspettava questo anche da noi donne. Adesso invece cerco di valorizzare un po' il mio essere donna con tutti i pregi e i difetti che questo comporta. Una curiosità, ora che fai abiti da sposa hai scoperto di avere un sacco di amiche che vogliono provare delle cose o venire da te? Beh sì, ma spesso ecco le trovo, cioè diventano delle amiche le clienti magari anche che non conoscevo perché abbiamo più o meno la stessa età e quindi si instaura spesso un rapporto che poi dura nel tempo, quindi è bello per questo. Bene, noi diamo anche il tuo sito che è giorgiaf.it e ti ringraziamo di essere stata con noi, buona fortuna. E noi diamo di nuovo il numero di telefono 800 24 00 24, se avete a un certo punto riscoperto una vostra capacità artigianale oppure se lo state progettando, se ci state provando, se qualcuno vi dice sai che tu dovresti proprio fare quella cosa lì di lavoro, chiamateci e raccontateci. Questa scelta di vita è sconsigliata se avete fatto ai ferri un maglioncino per la zia ed era perfetto per il suo barboncino. Credete che per Vinca non sia un colore ma un'imprecazione. Quando mostrate a qualcuno un vostro disegno vi risponde «Bello! Che cos'è?» Avete provato a vendere degli orecchini fatti da voi e li hanno comprati come fermacarte. Vi fate da soli l'orlo dei pantaloni usando la spillatrice. Beh, insomma, ci vuole un po' di talento, bisogna avere un minimo di, diciamo, come dire, di capacità anche di quella che si riconosce, insomma, di quella che vi viene riconosciuta anche dagli altri, però poi ci vogliono anche tutta una serie di cose, di idee, di capacità, di studi, e per questo noi, come facciamo sempre, andiamo a chiedere consiglio a un esperto. E se lo facessi io? Per questo motivo noi a Giro di Vita siamo al telefono con Fausto Maria Franchi, che è un artista, artigiano e orafo ed è vicepresidente dell'associazione Orafi, della Confederazione Nazionale degli Artigiani. Pronto? Pronto, eccomi qua. Allora, intanto ha sentito la storia di Giorgia, di una persona che ha lasciato un'azienda anche molto importante per aprire una bottega. Le capitano storie di questo tipo? Incontra giovani che hanno fatto questa scelta? Ma di giovani che fanno di queste scelte, che riescono immediatamente, è un po' difficile. Ad ogni modo, di giovani che vogliono intraprendere così un'attività artigianale, perché l'attività artigianale è quella che poi fa bene anche alla salute. L'artigianato artistico, io dico sempre che è un artigianato terapeutico. Fa bene alla mente? Sì. Cioè io la sento anche sorridente dopo tanti anni di lavoro, fa bene? Sì, fa bene veramente alla salute, alla mente. Senz'altro, logicamente non basta avere così il desiderio, ma bisogna anche il saper fare, saper fare, conoscere le tecniche. Logicamente siamo in una situazione in cui si lotta gomito a gomito, per cui chi sa far meglio è quello che può andare più avanti. È importante la motivazione, l'essere tenaci e cercare di lottare. Ecco, noi parliamo con il nostro programma soprattutto di persone che a un certo punto hanno cambiato, perché ovviamente c'è un sacco di gente che fa l'artigiano o altri mestieri perché ha iniziato a fare quello. Noi invece parliamo di persone che magari chissà quale età, ma a 30 anni, a 35 anni decidono di cambiare. Qualche consiglio per queste persone che arrivano in un'età in cui magari altri sono già nella professione da 10-15 anni? Ma io dico che è importante avere il supporto di una di queste associazioni sindacali, la CNA logicamente è quella più grande, la più capillare, perché possono dare sia degli aiuti di indirizzo, aiuti anche di sostegno finanziario, spiegando quali sono le vie giuste per poter prendere i fondi e poi quali sono le procedure per poter aprire un'attività, dei consigli, qual è la zona, il posto più adatto. E forse è anche importante l'aggregazione, cioè si è visto che quando sono più artigiani diversi in uno stesso centro, in una stessa strada, sono quelli che maggiormente possono avere riscontro positivo, in quanto si sa che in quella via o in quel luogo ci sono più artigiani, per cui quindi magari trovate degli amici che vogliano intraprendere anche loro in settori diversi. Magari attività diverse, non so, l'orafo, il ceramista, il pellettiere, che ne so, ma l'importante anche è questa, una delle cose, ma il supporto però delle associazioni sindacali le trovo fondamentale, importante. Anche perché ci sono delle regole per poter aprire un'attività e questo... Quali sono gli errori classici? Perché io penso che se uno poi di solito fa il dipendente, l'impiegato, non si deve occupare di tutta una serie di cose. Magari decide di fare, che ne so, l'artigiano, il sarto, perché ha delle abilità manuali e scopre che si deve confrontare con tutta una serie di questioni burocratiche, di scelte. Quali sono gli errori più comuni che voi vedete compiere? Gli errori più comuni sono quello che vuole sciogliere i nodi da solo. È certo che siamo tutti un po' impreparati, per cui bisogna rivolgersi a chi sa, per cui è per questo che consigliavo delle strutture sindacali, perché hanno la conoscenza delle regole e la conoscenza del territorio. Ma se io andassi invece da un altro artigiano, secondo lei ancora c'è questa cosa? Io vado magari non giovanissimo, dico 30-40 anni, a chiedere a un artigiano se posso imparare da lui. Questo si può, ma è già un pochino più difficile. C'è una questione di sicurezza sul luogo del lavoro. Oggigiorno quando una ditta ha più di un dipendente, allora c'è questo problema. E poi il problema di uno che non ha nessuna conoscenza del mestiere e vuole imparare, entrare in un laboratorio, questo è così, no, non è che sia facile. Quindi corsi. Forse ci sono dei corsi, sì, però regionali, dei corsi di vari tipi di attività di mestiere, perciò io penso che si può intraprendere anche attraverso questo, attraverso conoscenze. Perfetto, io la ringrazio per questi consigli. Era Fausto Maria Franchi, che è un artista, un artigiano, è un orafo di grande esperienza. Aronda Viverno, vieni avanti. Riverisco eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello tutto, bravo. Grazie, adesso ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino. Ecco. E questa era una scena di Alberto Sordi in cui appunto si relaziona con un artigiano in un modo che credo che molti artigiani all'ascolto temano, cioè non pagandolo, decidendo di non pagarlo e di stare lì insomma a complimentarsi solo per la sua opera senza però mettere mano al portafoglio. 800240024, questo è il nostro numero per intervenire. Luca, pronto? Ciao, pronto. Luca, che fai? Hai un progetto del genere? Diciamo che sono in una situazione simile, anche se comunque il mio progetto non è per adesso, anche per, diciamo così, mancanza di fondi, di aprire un'attività in proprio. Però ho un'esperienza, diciamo, che può essere portata come esempio, perché io avevo dedicato la mia vita, considerando anche gli studi eccetera, a un settore che era il settore quello dell'automotive, e in seguito ho visto la crisi anche al settore assicurativo. Io lavoravo per un'agenzia assicurativa qui della mia città, che è a Pisa, e a un certo punto ho deciso di cambiare totalmente vita, diciamo, memore delle mie esperienze di lavoro che facevo d'estate, diciamo, quando avevo 15 anni, 16 anni. Cosa facevi? Ma era un lavoro, diciamo, possiamo dire, da operaio, sistemavo biciclette, sistemavo macchine. Ma non c'è niente di cui vergognarsi. No, no, anzi, io ne sono fiero. Io penso che se in un futuro avrò un figlio... Sì, io non capisco mai perché nei film americani vediamo sempre questi ragazzini che d'estate fanno 2000 lavori da lanciare i giornali, così, e invece noi dobbiamo da adolescenti... Solo... Per me è stata un'esperienza molto formativa, ecco, devo dire questa cosa. E quindi adesso come stai cambiando? E adesso sono cambiato totalmente, sono andato a fare un altro lavoro, diciamo così, in cui l'uso delle braccia è importante, che è un lavoro in una grande catena, diciamo, alimentare, non so se la posso citare, che è la McDonald's. È un lavoro che viene, diciamo, da tutti considerato duro, in effetti è un lavoro duro, dove però io mi sono trovato bene. Ma scusa, da quanto ci stai? Da nemmeno un anno, però hanno puntato in me. E fai carriera? Mi hanno fatto il contratto indeterminato. Però scusa, non è un lavoro, adesso per figurare il massimo rispetto, non è un lavoro che però insomma è bello lì inquadrato, insomma sì è vero, fai una cosa con le mani, però seguendo delle procedure rigide. Diciamo che ci sono delle procedure molto rigide, però considerando il fatto che ognuno deve saper fare praticamente qualsiasi cosa all'interno, poi ci vuole secondo me una discreta elasticità mentale, cioè uno deve anche abituarsi, non è che è facile, che uno può... Luca, ti stiamo un po' perdendo. Vuoi fare questo nella vita? Pensi che fare questo a lungo? No, naturalmente ora questo lo porto come esempio, perché in pratica... Ma il tuo progetto per la vita, dimmelo, ce l'avrai. Il mio progetto per la vita sarebbe naturalmente, con l'esperienza che ho maturato anche all'interno, poi tra l'altro mi hanno proposto, insomma in futuro apriranno il medesimo... Sì, ma dimmi cosa vuoi fare? Magari se è possibile anche cercare di rimanere all'interno, mi hanno proposto una posizione, diciamo, in futuro manageriale, quei manager junior, diciamo. Quindi vuoi rimanere lì, ho capito. Potrei rimanere lì e poi con l'esperienza maturata magari aprire un posto mio. Sì, va bene, un ristoratore. Vedi, il ristoratore va sempre. 800240024, Diana, pronto? Ciao. Diana, tu cosa fai nella vita? Io sono un'operaia di una grande azienda del gruppo Fiat nei pressi di Milano. E di preciso cosa fai? Di preciso sono un operatore su macchine automatiche giapponesi che fanno schede elettroniche per le auto della Fiat, ma io nello specifico per Audi. Quindi già lo fai un lavoro, diciamo, manuale? Sì, diciamo che a lungo andare risulta ripetitivo, perché per quanto io sia il primo di un anello, di un procedimento lavorativo, di un processo lavorativo, alla fine dopo un po' risulta noioso, ripetitivo. E quindi qual è, diciamo, la tua via di fuga? La mia via di fuga da qualche mese a questa parte è un hobby manuale che sto sviluppando. Io da tutta una vita sviluppo hobby manuali di tutti i tipi. Da bambina mi piaceva lavorare con il legno, invece di stare dietro ai fornelli con mia mamma preferivo stare giù in officina con mio papà a curiosare tra seghe, martelli, avvitatori e tutto il resto. Da qualche mese a questa parte invece sto sviluppando delle idee con delle paste sintetiche, siliconiche, Fimo, Cernit. E che cosa fai, cioè, materialmente? materialmente creo degli oggetti che possono andare a decorare scatole piuttosto che vasetti, piuttosto che portafotografie. Tipo, ma dimmi un tuo pezzo, proprio un cult, una cosa che vorresti vendere. Una cosa che ho fatto ieri sera, per esempio, che sto iniziando a sperimentare con stampi molto molto particolari, mi sono fatta un biscotto, è diventato una collana questo ciondolo, mi sono fatto un particolarissimo biscotto di una famosissima casa produttrice di biscotti che non sto a dire. Va bene. E me lo sono appesa al collo. Ah, quindi è una collana a biscotto. Li possiamo vedere da qualche parte? Hai un sito, qualcosa? Ma io ho il mio profilo Facebook. Ah, ok. E dici, basta, come ti troviamo? Sì. Diana. Mi chiamo Crepaldi Diana. Li vendi questi oggetti? Ci cominci a guadagnare qualcosa? Al momento, come ho spiegato a un Fabrizio che mi ha chiamato, io al momento purtroppo non posso aprire una mia attività, ho un lavoro fisso e quindi non ce la grande, fai. Stabile, okay. Però è talmente, come dire, apprezzata questa cosa che prima o poi lo farai. Io sì, mi auguro proprio, veramente. E noi te l'auguriamo anche noi a te. Abbiamo, diciamo, anche noi portato a termine il nostro prodotto per oggi, fatto la nostra cosa. Se anche voi avete queste manie artigianali, avete questi progetti, ma raccontatecelo, magari ci torniamo su girodivita@radio24.it o su Facebook Giro di Vita. Io sono Achille Corea, ringrazio Fabrizio Intonti, ringrazio Alessandro Chiappini e ritorniamo domani qui. Ricordatevi che siamo aperti tutto agosto, Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.